Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buongiorno cari amiche e cari amici, ricordiamo oggi, a quasi un mese dalla scomparsa, Antonio Tabucchi. Lo facciamo con un libro di Lorenzo Pini che si intitola Lisbona con Antonio Tabucchi, una guida. Ci sono le illustrazioni nel libro di Guido Volpi e l'editore Giulio Perrone, 174 pagine, 12 euro. Questo libro non è un libro d'occasione, ma fa parte di una collana, Passaggi di Dogana, caratterizzata appunto dal rapporto tra un artista e un luogo. E quello fra Tabucchi e Lisbona fu un rapporto imprescindibile, che ci viene presentato dallo stesso Tabucchi in una descrizione iniziale che colloca il percorso del romanzo Requiem dello stesso scrittore nella geografia complessiva della capitale portoghese. Altri brani di Tabucchi troviamo intervallati nel libro, che non è una guida turistica ma una sorta di breviario per conoscere la città quartiere per quartiere, accompagnati sempre da Tabucchi. E sentiamo da queste righe come Pini ci sintetizza questo rapporto tra Tabucchi e Lisbona. La Lisbona dei personaggi di Tabucchi è il labirinto dei quartieri più antichi, come la Collina del Castello e il Bairro di Alfama. È la città scacchiera della Baixa, la parte bassa con le sue piazze, interamente ricostruita dal Marchese di Pombal dopo il terremoto del 1755. Ma è anche una città di porto, nei moli di Alcantara e Alcaís do Sodré, mentre mantiene il volto borghese nei quartieri centrali dello Xado e quello popolare oltre l'Avenida de Liberdade, verso Amoreiras. Visto dall'alto, un ammasso ora disordinato, ora geometrico, come vuole la sua travagliata storia urbana. Un'altra lettura insolita di un'altra grande capitale, questa volta Parigi, è rappresentata dal libro Metronomo, la storia di Parigi al ritmo del metrò, è pubblicato dall'Ippocampo. L'autore è uno scrittore e attore francese, Laurent Deutsch, che è molto appassionato di Parigi e che con questo libro ha sbancato in Francia vendendo diverse centinaia di migliaia di copie. La traduzione di Vera Verdiani, 370 pagine, 18 euro. Questo non è un romanzo, non è un libro di storia, non è una guida turistica, ma somma un po' tutti questi generi. E nel libro infatti troviamo tutti i capitoli che sono intitolati ciascuno a una stazione della metropolitana che interpreta un secolo di Parigi, dal primo secolo d.C. fino a oggi, fino al XXI secolo. Il metrò di Parigi diventa così una macchina per esplorare il tempo, come la chiama l'autore, che ci viene presentata ricostruendo la storia di Parigi e sforzandosi di farci scoprire i relitti e le testimonianze anche fisiche dei luoghi e delle vicende che vengono narrate. Ma su questo libro sentiamo l'autore. Buongiorno a Laurent Deutsch. Signor Deutsch, Metronome è un libro scritto per battere la misura e il ritmo del tempo, come lei spiega. Ecco, qual è il ritmo di Parigi? Il ritmo di Parigi è in ogni caso il ritmo del metrò ed è quello della circolazione. C'è un grande autore francese che si chiama René Rond Villefosse che dice che per avere un cuore in buona salute è necessario che ci sia una buona circolazione del sangue. E lo stesso vale per Parigi. Bisogna che la città circoli, che ci siano dei formicolii, degli imbottigliamenti. Il sindaco di Parigi fa di tutto per contrastare l'uso delle auto, ma di fatto vuole tagliare la circolazione di Parigi. E questo è un male per il cuore della città, perché la città deve circolare e il metro è un buon mezzo per circolare. Il suo libro è diviso in una serie di capitoli che prendono ciascuno il nome di una fermata del metrò ispirata a un secolo. Qual è secondo lei il secolo e la fermata del metrò più esaltante del suo viaggio? Io penso che il primo secolo, che è quello delle città, sia appassionante perché è da lì che tutto è partito. E d'altra parte è stato grazie agli italiani. Per me è stato Giulio Cesare che, organizzando la sua presenza a Parigi, ha messo Parigi lì dove si trova oggi. Per me l'antica città dei Galli, e dunque dei Parigini, si trova più ad ovest, nella città che si chiama Nanterre. E dunque la città è un buon punto di partenza. Parigi entra nella storia in quel momento e così comincia la città. E per quelli che conoscono la stazione Cité della metropolitana, si scende a 20 metri di profondità, quindi sotto alla Senna, e si ha la sensazione di entrare nel libro di Jules Verne, Viaggio al centro della Terra. Si entra in questo pozzo artesiano della storia, e si ha la sensazione di essere dentro al Nautilus. Lei scrive nel suo libro che la Grande Arche corona il cattivo gusto. Dunque anche Parigi è minacciata dalla modernità e dal cattivo gusto? Diciamo che si tratta di una frase un po' punzecchiante che io rivolgo agli architetti contemporanei e soprattutto a quelli degli anni 70, perché l'arco della Défense è figlio degli anni 80. Ed è vero che in quell'occasione c'era stato un eccesso di cattivo gusto. Ma in seguito abbiamo avuto degli artisti e degli architetti come Jean Nouvel, che ha realizzato ad esempio il museo di Quai Branly, artisti con i quali abbiamo tutta questa fluidità e tutti questi giardini verticali. Parigi è stata rovinata dal cattivo gusto, ma credo che ormai ne siamo usciti. Quali sono state le maggiori sorprese nel corso del suo viaggio nella storia di Parigi? Io metterei la mia mano sulla prima cattedrale di Parigi. È un luogo privato che non è classificato come monumento storico e che si trova a due piani sotto un parcheggio. Nella rue Pierre Nicole, nel quinto arrondissement di Parigi. Ed è lì che si trova il primo vescovo di Parigi, che si chiama Denis. E questo luogo è molto emozionante, dato che si tratta di una cripta sotterranea che è poco conosciuta. Nessun parigino la conosce. Durante il mio viaggio l'ho scoperta grazie a un signore che me l'ha rivelata quando è venuto a vedermi durante la mia tournée. Avevo avuto il sospetto della sua esistenza leggendo un vecchio libro di un autore che si chiama Jacques Villeret. E poi ho avuto la fortuna di incontrare questo signore che mi ha fatto conoscere questo posto. Non mancano nemmeno le testimonianze politiche. Diciamo che ho voluto scrivere un libro che non fosse una semplice successione di persone che il lettore incontra in modo separato, distaccato, un po' come noi sfortunatamente facciamo a scuola, dove impariamo le cose attraverso concetti che sono molto freddi, pieni di date, dove tutto viene fatto a pezzi. Per me la storia è, come dicevo prima, una circolazione. E quindi mi sono voluto agganciare a dei personaggi e ho cercato di seguirli il più a lungo possibile per mostrare fino a che punto sia impossibile separarli dal contesto e che le loro storie seguono un capitolo e ne precedono un altro. Quindi mi sono agganciato a dirigenti, monarchi, presidenti, dato che bisognava scegliere dei personaggi. E i più emblematici sono quelli che governano il paese. E questo, secondo lei, è una delle ragioni che spiega il grande successo del suo libro? Non saprei, è un regalo bellissimo che mi hanno fatto. Penso che sia perché sono riuscito a collocare la storia, o quantomeno il passato, le lezioni del passato, nel cuore del quotidiano della gente. È che la gente forse non ha tempo di leggere i libri di storia o di entrare in un museo. Forse hanno la sensazione che siano troppo lontani da loro, che non ci sia niente a cui possano aggrapparsi, che sono troppo distaccati da questi luoghi, che a loro volta non fanno più parte del quotidiano. Mentre io ho voluto dimostrare che nel tragitto che fanno tutti i giorni basta avere un po' di conoscenza e di curiosità per trovarsi faccia a faccia con il passato. Ho reinstallato la storia nel cuore del quotidiano, o perlomeno questa è la mia ambizione. E adesso cosa vede nel suo futuro? Un futuro più da scrittore o da attore? Io non mi sento né scrittore né storico. Mi sento uno che racconta e che trasmette delle storie. E che questo avvenga con le parole o con la lingua, in qualche modo lo si ottiene. Merci beaucoup. Bon dimanche. Arrivederci. E a questo punto, il confettino. Un libro che ci porta ancora più lontano, questo che vi presento adesso. Andiamo negli Stati Uniti con Fabrizio Silei, autore di L'autobus di Rosa, con le illustrazioni di Maurizio Quarello. È pubblicato da Orecchio Acerbo, 40 pagine, 15 euro. Arriviamo con questo libro a Detroit per visitare al museo Ford l'autobus dove nel 1955 iniziò la campagna contro la segregazione razziale avviata dal rifiuto di una donna di colore, Rosa Parks, appunto, a cedere il posto ai viaggiatori bianchi. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Tra qualche giorno ricorderemo il 25 aprile, allora vi voglio segnalare in queste circostanze il libro di Daniele Biacchessi, un nome noto a questa radio, della quale è vice capo redattore. Il libro si intitola Orazione civile per la resistenza, è pubblicata da Promo Musica Corvino Meda, editore, 268 pagine, 14 euro. Biacchessi interviene fin dalle prime righe sul dibattito sulla resistenza che si è sviluppato negli ultimi anni e nega che la resistenza sia stata una guerra civile, per farne risaltare invece l'autentico carattere che è, secondo l'autore, quello di una vera e propria guerra di liberazione contro la dittatura fascista e nazista. Perciò Biacchessi contesta quello che egli chiama il nuovo revisionismo e in particolare le tesi illustrate negli ultimi anni da Giampaolo Pansa, il quale, denunciando le esecuzioni degli anticomunisti, avrebbe trascurato, secondo l'autore, i misfatti precedenti del fascismo. Quindi questo è un libro ispirato a una visione molto netta della resistenza, illustrata attraverso le premesse dell'impegno antifascista e poi le vicende della guerra partigiana, le stragi fasciste e naziste, la liberazione del 25 aprile 1945, vicende arricchite anche da una serie di interviste ad alcuni testimoni diretti di quell'epoca. E su quel periodo segnalo il libro di Antonio Quatela, che è uno storico della resistenza, Pippo vola sulla città, ricordi e testimoni di bambini e ragazzi milanesi tra fascismo, guerra e resistenza, pubblicato da Mursia, 176 pagine, 14 euro. Qui siamo a Milano, quindi, e viene descritto come quella città visse il martirio della Seconda Guerra Mondiale quando fu sottoposta a disastrosi bombardamenti. Pippo, ricorda l'autore, era un misterioso incursore notturno che sganciava bombe qua e là, creando un'infinita paura nella popolazione. Pippo scorrazzava impunemente di notte sulla città, sembrava imprendibile e non ti faceva dormire. E il libro è costruito attraverso le testimonianze di molti milanesi di allora che ricordano quelle giornate e quei mesi drammatici. Una storia dell'epilogo della Seconda Guerra Mondiale sotto forma di romanzo è quella di Adelchi Battista, Io sono la guerra, pubblicato da Rizzoli, 528 pagine, 22 euro. Dal 23 giugno del 1943 al 25 luglio, giorno per giorno, viene ricostruita la fase più drammatica e decisiva della guerra, quella nella quale si assiste alla caduta del fascismo, una fase che viene ricostruita con documenti originali ma in forma narrativa, così da rendere particolarmente appassionante questa cronaca che assume il carattere di un lungo reportage. Sentite per esempio queste righe dedicate alla moglie di Mussolini, a Rachele Mussolini. Rachele Guidi è la moglie di Mussolini, femmina di mondo di cui si tramandano le storie più diverse, come che il giovane fidanzato Benito abbia minacciato di ucciderla con una rivoltella davanti ai genitori se questi non gli avessero dato il permesso di sposarla. Adesso, dopo tanti anni, dopo cinque figli, e nonostante le scappatelle del marito, lei sta cercando con tutti i mezzi di difendere il fascismo dagli attacchi che vede arrivare da ogni parte. A Villa Torlonia, dove dimora in pianta stabile da quando il principe Giovanni Torlonia l'ha affittata al marito per una simbolica lira all'anno, invita ora questo, ora quel dignitario, militare, amico, uomo di fiducia, per esporgli le proprie sensazioni. Oggi ci sono Dolman, colonnello della SS in servizio all'ambasciata tedesca di Roma, e l'ex sottosegretario agli interni, Guido Buffarini Guidi. Donna Rachele è in preda a uno dei suoi sfoghi. Voi dovete diffidare innanzitutto della corona. Il Quirinale è oggi luogo dell'intrigo massimo contro mio marito, contro gli alleati tedeschi, contro la guerra. Ma devo avvertirvi prima di tutto di un'altra questione. Dovete assolutamente guardarvi dal vostro caro amico. Dolman sgrana gli occhi. Intendete forse proprio lui, Ciano, la disgrazia in persona. È entrato in casa nostra come una terribile fatalità. Galeazzo ha portato il falso lusso e l'eleganza che non avevamo mai conosciuto, perché noi siamo tutti di umili origini e la sua presenza non è stata che una spina nell'occhio. Ha reso immorale la nostra famiglia e se devo vergognarmi davanti ai miei nipoti, la colpa è sua. Quello che oggi è diventata mia figlia Edda è colpa sua. E su Rachele ricordo che è uscito il libro della nipote omonima che ha scritto appunto Mia nonna il duce, pubblicato sempre da Rizzoli, 190 pagine, 18 euro. Avete sentito dalle righe che abbiamo ascoltato, citato la figura di Dolman, che fu uno dei protagonisti della presenza nazista a Roma in quegli anni, fu al centro di molti intrighi, soprattutto in occasione della caduta del fascismo. E di Dolman viene ripresentato un testo, La calda estate del 1943, pubblicato dalle Lettere, 126 pagine, 9,50 €. Dolman, ci scrive Francesco Perfetti nella introduzione, fu un personaggio controverso e contraddittorio, attorno al quale sono nate molte leggende. Scrive Perfetti che alla fine era davvero una personalità amletica e piena di sfaccettature, se non proprio ambigua, narcisistica e vogliosa di protagonismo. Aveva gusto per il potere e l'intrigo inteso come strumento per la conquista e l'esercizio del potere. E qui, in questo libretto, abbiamo la ricostruzione di quelle ore vissute da un punto di vista effettivamente molto importante. Concludiamo con un romanzo, questo di Paolo Chipinti, l'ex direttore di Oggi, famoso anche negli anni 60 come cantante sotto il nome di John Foster. Di lui viene pubblicato D'amore e di guerra da Cairo, 176 pagine, 14 €. Questo è l'esordio narrativo di Occhi Pinti, ambientato sopra il lago di Como dopo l'8 settembre del 43. Il romanzo si ispira a un fatto di cronaca realmente accaduto e ruota attorno al personaggio di Menica, un personaggio intorno al quale si sintetizza lo scontro drammatico vissuto in quei mesi dall'Italia e dal mondo. E con questo ringrazio Luca Cremonesi in redazione, Peter Bescapè in regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica libro@radio24.it e il nostro sito www.radio24.it, nel quale potete riascoltare sempre questa e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona domenica e vi do appuntamento alla settimana prossima.